sbagliato, sono sirve per essere sclavizzato. Provo a sterminarti, ma cosa non sirve. Chiedo di sfocarti del dolore. Basta di cudicità. Maldito servo. Ah!